succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Salviamo il Partito Democratico. Berlusconi offre aiuto. Noi siamo garantisti. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Il titolo del quotidiano Il Riformista esprime quello che sta avvenendo nel mondo della politica, con delle particolarità, perché mentre Silvio Berlusconi nel Consiglio dei Ministri, e oggi vedremo anche un'intervista, Fabrizio Cicchito lancia l'appello salviamo il Partito Democratico, che capiremo perché. Due quotidiani di area di centrodestra come il quotidiano Libero e il Giornale invece dicono il contrario: non proteggete i ladri, questa è la supplica al governo che fa il quotidiano Libero, e il Giornale invece attacca, e il suo direttore Mario Giordano dice Walter l'indifendibile, e dunque si crea, diciamo, un diverso orientamento. Ma andiamo a vedere che cosa dice per esempio alla Riformista un uomo importante del, diciamo, dell'entourage di Silvio Berlusconi, del Presidente del Consiglio, come Fabrizio Cicchito. Dobbiamo salvare il Partito Democratico, ma la smettono di piegare la testa alla magistratura. Questa è l'intervista sul quotidiano Riformista di Fabrizio Cicchito. Vediamo cosa dice. Vanno aiutati, anche se a parti rovesciate loro ci avrebbero asfaltato. Fabrizio Cicchito, la tempesta giudiziaria si sta abbattendo sul Partito Democratico. Cosa facciamo? Facciamo che salviamo il PD. Nel senso che se il principale partito dell'opposizione deve essere fatto fuori dalla magistratura, come sembra stiano mettendo le cose, allora occorre salvarlo. Lei è proprio garantista, lo sono. Per me il garantismo è una fede e deve sempre valere, anche se non so dire se a parti rovesciate sarebbe successa la medesima cosa. Se al posto del PD oggi ci foste voi, cosa succederebbe? Ho paura che ci avrebbero asfaltato. Ma non fa niente, io li voglio salvare lo stesso. Siamo davanti a una seconda Tangentopoli, non esageriamo. Siamo all'inizio di una possibile seconda Tangentopoli. Che cosa sta succedendo? Il problema sta proprio qui. Nessuno può dire cosa stia succedendo. Si sa soltanto che per la prima volta gli eredi del Partito Comunista si trovano nel tritacard della magistratura. Passati indenni ai finanziamenti sottobanco dell'Unione Sovietica, delle cooperative, adesso la storia arriva a presentare il proprio conto. Ma perché proprio ora? E chi esattamente vi sia dietro non so spiegarlo. Su chi ci sia dietro proviamo ad arrivarci dopo. Adesso mi dica, vuole salvare il PD per pulo zero garantista o anche per altri motivi? Beh, c'è anche una questione di opportunità politica. A noi la fine del Partito Democratico non serve. A noi serve un Partito Democratico forte, col quale sia possibile mettere in campo quelle riforme bipartisan che lo stesso Veltroni, prima del grande tradimento, aveva detto di voler fare. Grande tradimento? Il tradimento elettorale, aveva detto che voleva andare alle elezioni da solo, e noi avevamo reagito a questa sua bella intuizione unendo le forze con il solo accordo con la Lega. Poi lui ha deciso di imbarcare Antonio Di Pietro. Insomma, ecco che viene un inaspettato, o forse aspettato da alcuni, aiuto da la maggioranza di governo e in particolare Silvio Berlusconi, che qui vediamo sul quotidiano Il Riformista. Non solo Il Riformista parla di questo, ma vi dicevo, mentre il Presidente del Consiglio e i suoi uomini lanciano questo appello, in pratica, in sostanza, contro i magistrati, come dire, è il momento di fare le riforme bipartisan, che poi vuol dire sostanzialmente in qualche modo indebolire il ruolo della magistratura. Beh, Libero lancia un appello che è contrario, perché Vittorio Feltri intanto titola "Non proteggete i ladri, è il momento di dimostrare che i compagni non hanno il monopolio dell'onestà, finalmente anche i giudici l'hanno capito, non fermateli con riforme intempestive". Ecco, quindi come vedete sono due diversi orientamenti. Siamo disorientati, non tanto per quanto accade a Napoli e a Pescara, dove la magistratura ha messo sotto schiaffo le giunte sospettate di corruzione dopo che per anni i compagni avevano rivendicato una presunta superiorità morale rispetto agli avversari politici. Questo sostituire Vittorio Feltri. Siamo disorientati dall'atteggiamento assunto dalla maggioranza, la quale, invece di essere lieta che finalmente le procure perseguano anche i ladri di sinistra, sollecita la riforma della giustizia come se le stesse più a cuore la impunità del PD e dei suoi mariuoli che non l'eliminazione dei disonesti. La cosa non ci piace per vari motivi. Questo dice nero su bianco Vittorio Feltri sul quotidiano Libero e aggiunge: attendevamo questo momento da lustri, la smetteranno i progressisti vantare un'etica di cui hanno fatto trame senza mai pagare dazio. Tutti lo abbiamo pensato, anche se ci siamo trattenuti dall'esultare pubblicamente, tutti meno Berlusconi, che tradisce l'idea di essere addirittura addolorato e di volersi precipitare in soccorso dei furfanti travestiti a Santarellini. C'è l'opportunità di pareggiare benché tardivamente i conti e lui si rifiuta di riscuotere. Peggio, affretta i tempi della salvifica riforma della giustizia. I PM si decidono a compie il loro dovere con criteri bipartisan e il Cavaliere non è contento, medita di limargli le unghie. Ecco la chiave di lettura che propone Vittorio Feltri. Ma aspetta un attimo, scrive ancora Feltri, benedetto uomo, falli lavorare, consentili di documentare che i democratici non sono affrancati dalle debolezze umane e che i loro peccati assomigliano tanto a quelli dei mortali e morti socialisti, democristiani, socialdemocratici e soci, magari più gravi, visto che i malandrini di una volta rubavano per il partito mentre questi agivano per la tasca. La riforma della giustizia in ogni caso va fatta, mi permette osservare però che deve servire ai cittadini e non ai ladri. Ecco, quindi diciamo Vittorio Feltri mette in evidenza quello che è il nodo principale: salvare il Partito Democratico e come dire, fare una riforma che lima le unghie, come dice, ai magistrati, oppure prendere una strada diversa. Questo è il quesito dei quotidiani di oggi. Walter l'indifendibile, e Walter sta per Walter Veltroni. Questo è l'editoriale di prima pagina del quotidiano Il Giornale di Mario Giordano. Difendere il PD? No grazie, non questo PD, non il PD che si è affidato al braccio mortale con Di Pietro, non il PD che in un anno sulla strada dei girotondi ha dilapidato il suo patrimonio di credibilità, non il PD del Circo Massimo, non il PD che cavalca l'onda, non il PD che sollecita la piazza diffondendo menzogne, e così via dicendo. Come vi avevo sottolineato prima dell'interruzione, i giornali dell'area, alcuni giornali dell'area di centrodestra come Il Giornale e Libero, in qualche modo si mettono di traverso di fronte alle parole di Silvio Berlusconi, di Fabrizio Cicchito e di tutto l'entourage politico, diciamo, del Presidente del Consiglio, che dice: salviamo il Partito Democratico e facciamo subito una riforma della giustizia, che in qualche modo, dice Vittorio Feltri, anche polemicamente, vorrebbe limare le unghie ai magistrati. E questa è la grande partita che si gioca. Infatti in prima pagina ancora dice Mario Giordano sul Giornale: difendere il PD come chiede per esempio Giuliano Ferrara, sarebbe possibile se Veltroni in un anno avesse fatto un po' di quello che aveva promesso, se anziché buttarsi fra le braccia del trattorista di Montenero avesse provato davvero ad andare da solo. Non esultiamo di fronte all'inchiesta giudiziaria, tutt'altro, continuiamo ad avere molti dubbi sul modo di procedere dei magistrati, sui tempi degli arresti, sull'uso delle manette, sui contenuti delle accuse, e il fatto che il Partito Democratico sia dato già per morto, se non altro dai vignettisti della sinistra, ci preoccupa, così come ci preoccupa l'inevitabile paragone che in queste ore corre sulle pagine dei giornali tra il PSI di Craxi del 92 e il PD di Veltroni. Ma dice: non possiamo però difendere, perché Walter Veltroni è indifendibile. Questo sul Giornale. Il Giornale, come La Stampa, tra le altre cose, apre la prima pagina con, diciamo, non è una notizia, ma è una quasi notizia, Tangentopoli, Partito Democratico, l'inchiesta punta su Roma, e anche La Stampa titola: appalti, spunta un filone romano, come a dire che potrebbe e dovrebbe succedere qualcosa anche su Roma. D'altronde, se noi andiamo a vedere cosa scrive la Repubblica, Giuseppe D'Avanzo, sempre ben informato, scrive: l'inchiesta sul sistema Romeo punta diritto verso gli appalti e le politiche della regione Campania, governata sugli ultimi 8 anni da Antonio Bassolino. È scritto nero su bianco nella richiesta dei pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari. Senza spreco di tante parole, con micragnosa economia, quasi con discrezione. Come a nascondere quel che accadrà ora? E quindi, allora, lì, qui D'Avanzo sulla Repubblica in realtà si limita a parlare della regione, cioè dell'allargamento alla regione, quindi alle responsabilità del governatore della regione Campania Bassolino, quasi a far capire che nelle prossime ore potrebbe accadere qualcosa anche sul piano giudiziario in regione. Questo dice Giuseppe D'Avanzo. Ora, come vi dicevo, questo dibattito sul Partito Democratico è ormai avviato, e anche Fausto Bertinotti sulla Repubblica in un'intervista dice: caro Walter, ammettiamolo, il partito leggero ha perso, a sinistra serve un Big Bang, cioè qualcosa che scuota la sinistra, la nomenclatura nel bunker assediato, non ci facciamo cancellare dai poteri forti. Volevo segnalarvi anche altre due cose sul quotidiano della Repubblica, temi che ci sono anche su altri quotidiani. Uno è l'attacco di Tremonti a Draghi, sì, perché il ministro Tremonti attacca Draghi in quanto dice, insomma, non è stato previsto, non possiamo prendere lezioni da chi non è stato in grado di prevedere la crisi che è in atto adesso. Andiamo a vedere che cosa dice in particolare. Sì, Giulio Tremonti questa volta usa l'arma dell'ironia, e meno male che c'era il Financial Stability Forum, dice il ministro dell'economia uscendo dall'Ecofin. La battuta a proposito dell'ennesimo scandalo finanziario, il crack provocato dalla speculazione dell'americano Madoff, è in realtà una frecciata diretta a Mario Draghi, che è appunto il presidente del forum. Il ministro non dimentica le critiche e i richiami che il governatore della Banca d'Italia ha fatto in passato al governo. È demenziale, ha aggiunto Tremonti, prendere lezioni da chi non ha capito nulla. Secca la risposta di Draghi: non commento queste cose, taglia corto dopo aver partecipato alla riunione. Insomma, dice Tremonti e Draghi sedevano allo stesso tavolo dell'Ecofin, ma è Tremonti che ha lanciato una frecciata di non posso prendere lezioni da chi invece non è stato in grado di prevedere nulla, non ha capito nulla di quello che stava avvenendo nel mondo della finanza e dell'economia. E poi ancora a pagina qui 14-15 la Repubblica si occupa di Eluana resta a Lecco, la clinica invece accusa Sacconi ci sta minacciando, il PM di Cassazione dice addirittura pronti a usare la polizia, una regione di centrodestra che svincola dagli ordini di un governo di centrodestra, è possibile? Non si sa, oggi se ne andrà a finire proprio così. Però in Friuli, con il caso di Eluana Englaro, si sta aprendo un fronte di guerra dagli esiti imprevedibili. In parecchi si sentono trattati, come dicono da queste parti, da sottan, da gente che subisce. E non ci stanno. L'Italia è veramente un paese strano. Alla deriva, sono non a caso le prime parole dell'amministratore delegato della clinica Città di Udine, ieri alle 18 passate Claudio Riccobon, legge due pagine che senza diplomazia contrattaccano. Le intimidazioni del ministro Maurizio Sacconi snobbano gli anatemi delle sfere cattoliche, ringraziano i tanti cittadini che esprimono solidarietà. La tragedia della famiglia Englaro, che avviene con la benedizione dei ben pensanti, per i quali il sacrificio degli altri ha un valore che noi francamente facciamo fatica a comprendere, è al centro della scena, e le due pagine assicurano che le porte della clinica restano aperte, a patto però, chiede Riccobon, che la regione Friuli Venezia Giulia si prenda la responsabilità di condividere questo percorso. Ecco, questo è il tema forte, il tema che, come dire, in qualche modo tocca le prossime ore con la decisione qui addirittura Piero Colapricco autore di questo servizio dice che appunto il PM di Cassazione e dice siamo pronti a usare la polizia dopo le decisioni ormai inequivocabili e inappellabili dei magistrati a proposito del caso Englaro, di Eluana Englaro. Questo il quotidiano La Repubblica, che titolo vedremo sul Sole 24 Ore, tutti i dubbi, diciamo, della sentenza, Parmalat, prima condanna, 10 anni a Tanzi. Ora, come vi dicevo, la stampa Appalti spunta un filone romano, E ci sono ben due commenti, quello di Gian Enrico Rusconi, questione immorale. La questione morale esplose nel momento in cui si pose una questione politica enorme, scriveva ieri Emanuele Macaluso sulla stampa. Parlava della crisi del PSI di crack, dell'implosione che ne è seguita per l'intero sistema partitico della Prima Repubblica e proiettava la stessa sindrome e la stessa diagnosi sul partito di Veltroni oggi. Un'analisi acuta, scrive Gian Enrico Rusconi. E mentre Carlo Federico Grosso, a questo proposito, sempre sulla stampa, dice i botti giudiziari di questi ultimi giorni che hanno coinvolto esponenti di rilievo del Partito Democratico hanno aperto una rilevante questione politica. L'esistenza di tale questione non cancella tuttavia la contemporanea esistenza di una questione morale e di una questione giudiziaria. Due quindi riflessioni importanti e approfondite a proposito della questione appunto immorale. Dice ancora Gian Enrico Rusconi, ma forse i conti non tornano del tutto. Macaluso segue puntualmente la paralisi partitica interna di un PD che non sa decidere nulla sulle grandi questioni Europa, PSE, giustizia, bioetica, alleanza con Di Pietro e aggiungo l'ambivalenza verso la Lega, ma dimentica che il contesto in cui tutto ciò avviene non è paragonabile a quello in cui si consumò l'ultimo craxismo e il tracollo del sistema partitico della Prima Repubblica. Oggi ci sono il berlusconismo vincente e un disorientamento depressivo della società civile che creano un contesto inconfrontabile con quegli anni. Mentre Carlo Federico Grosso dice la grande novità è che al centro della questione morale si trova oggi il principale partito di opposizione. Questione morale nella politica significa innanzitutto predisposizione di meccanismi adeguati di selezione del personale dei partiti e di controllo del loro operato, idonei a prevenire prevaricazioni, favoritismi, interessi privati, ruberie, e quindi si chiede qui tolleranza zero. Questo chiede Federico Grosso sul quotidiano La Stampa. E adesso invece dobbiamo... volevo sempre su questo tema, mi stavo dimenticando di segnalarvi sul Corriere della Sera un Gian Antonio Stella. Gian Antonio Stella invece parla di soluzione sbagliata. Avete visto prima che abbiamo sottolineato come alcuni quotidiani dell'area di centrodestra, Libero e Il Giornale dicono a Berlusconi non salvate il Partito Democratico, fate andare avanti la magistratura, mentre un'altra parte della maggioranza di governo e del PDL dice no, salviamo il Partito Democratico a condizione di fare però una riforma della giustizia che finalmente insomma modifichi il potere dei magistrati. Questo è poi la partita in gioco. La soluzione sbagliata, questo dice Gian Antonio Stella, il guaio dice che il nodo della corruzione in Italia, al di là delle sorti giudiziarie degli indagati cui auguriamo di dimostrare un'innocenza cristallina, è rimasto irrisolto dai tempi in cui Silvio Berlusconi racconta che a Milano non si poteva costruire niente se non ti presentavi con l'assegno in bocca. Lo dicono decine di processi in tutto il paese, lo confermano gli studi di Grazia Mannozzi e Pier Camillo Davigo. E lo testimoniano infine le classifiche sulla percezione della corruttela elaborate da Transparency. Nel 1993, in piena Tangentopoli, eravamo al 30° posto tra i paesi virtuosi. Nel 2007 stavamo al 41° e quest'anno siamo precipitati al 55°, dietro A parte la Grecia, che di questo passo sorpasseremo a ritroso, abbiamo solo paesi come la Turchia, la Tunisia, la Georgia, la Colombia. Davanti abbiamo il Porto Rico, il Botswana, Cipro. Qualcuno obietterà che si tratta di graduatorie da prendere con le pinze, giusto, ma certo la nostra reputazione in questo settore è pessima. E quindi, dice, conclude Gian Antonio Stella, la tentazione che pare serpeggiare qua e là, destra e a sinistra, è quella di uscirne dando una regolata alla magistratura. Meno inchieste, meno arresti, meno scandali, meno indignazione popolare, meno astensione alle urne. Ma ammesso che qualche giudice abbia esagerato, sarebbe questa la soluzione? E Gian Antonio Stella lo dice nel titolo, la soluzione sarebbe questa, una soluzione sbagliata. Questo dal Corriere della Sera. Parmalat condannato, Tanzi, i giudici di Milano, Bank America senza responsabilità va risarcita, no al patteggiamento per i revisori. Ecco, questo è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, e la notizia giudiziaria più importante del giorno. Tutti i quotidiani ce l'hanno. Il Sole 24 Ore dedica due commenti, bisogna dire, critici alla sentenza, diciamo, sulla Parmalat. Intanto Orazio Carabini, il titolo già parla da sé: il risparmio italiano tradito due volte. E, insomma, Tanzi, scrive Orazio Carabini, è l'unico responsabile. La tesi accusatoria della Procura di Milano è stata smontata. Ci sono voluti 5 anni per arrivare alla prima sentenza sul crack della società di Collecchio. Altre ne seguiranno a Milano e a Parma. Ma l'inizio non promette nulla di buono, scrive Orazio Carabini. Pensare che Tanzi, da solo, abbia potuto orchestrare tutte le operazioni finanziarie che hanno portato al dissesto di Parmalat è abbastanza curioso, e soltanto le motivazioni della sentenza chiariranno in che misura le assoluzioni dipendono dalle nuove norme sulla prescrizione introdotte con la legge Cirielli. Tutto ciò che si è visto finora nelle aule di giustizia non fa ben sperare. Tempi lunghi, anzi lunghissimi, e decisioni favorevoli alle banche, dal risarcimento a Citi, cui è stato condannato il commissario della nuova Parmalat Enrico Bondi, negli Stati Uniti, alla soluzione dei dirigenti di Bank of America nel processo per aggiotaggio, con tanto di risarcimento alle banche, più una serie di patteggiamenti che danno sempre l'impressione della sanatoria. E scrive ancora Orazio Carabini, negli Stati Uniti il sistema, che ha dimostrato di non avere una capacità di prevenzione delle truffe più sofisticata di quelle italiane, reagisce rapidamente ad abusi come quelli commessi da Madoff e dai suoi compari. Lì almeno la giustizia fa il suo corso in pochi mesi ed è poco incline a considerare con benevolenza la posizione degli imputati in questo tipo di reati. Il caso Enron è stato esemplare a questo proposito. E ancora Giuseppe Oddo, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, scrive a proposito della decisione: è una doccia fredda sia per la procura che per i risparmiatori l'esito del processo per aggiotaggio che assolve tutti tranne Callisto Tanzi. Un uomo solo può aver creato un buco da 14 miliardi? Alla condanna del Cavaliere si contrappongono assoluzioni generalizzate, a cominciare da Bank of America, e per migliaia di obbligazionisti truffati, ma anche per la nuova Parmalat quotata, senza un responsabile civile sfuma la possibilità di risarcimento del danno. Ecco, sì, questo è forse uno degli elementi che effettivamente preoccupa il gruppo Parmalat, ancora prima che un'azienda lattiera, è stato tra la metà degli anni 90 e il 2003, fino al momento della bancarotta, uno dei principali fabbriche internazionali di titoli tossici. Nella requisitoria al processo per aggiotaggio, concluso con la condanna di Callisto Tanzi a 10 anni di reclusione e il proscioglimento di tutti gli altri imputati, il pubblico ministero Francesco Greco aveva fatto l'elenco delle operazioni spazzatura che le più grandi banche di investimento del mondo avevano cucito addosso come una camicia di forza alla Parmalat di Callisto Tanzi. Domande senza risposte. Sul dissesto gravano gli interrogativi sulle connivenze che permisero al patron di passare indenne per Tangentopoli. Questo leggiamo diciamo sul Sole 24 Ore a proposito. E poi voglio sempre segnalarvi sul Sole una lettera di Paolo Bastianello, lettera di un industriale veneto. Noi piccoli imprenditori, vittime delle follie finanziarie, gentile direttore, desidero riprendere le considerazioni tutte condivise apparsi il 9 dicembre sul Sole 24 Ore in un articolo di Daniele Marini, titolato «Pericoloso lasciare solo le piccole e medie imprese, poiché quanto scritto è stato ampiamente discusso ed apprezzato nell'ultimo consiglio regionale del sistema moda del Veneto, l'articolo riprendeva i contenuti dell'intervista a Giuseppe Morandini, presidente della piccola industria di Confindustria, del 5 dicembre. I sentimenti di sconforto, disorientamento e solitudine riportati da Marini sono esatti. Noi imprenditori, oltre a sentire con gravissima preoccupazione una crisi profonda, strutturale, con limiti temporali indefiniti, avvertiamo con grande amarezza la mancanza di una comunione di volontà e coesione dell'intero sistema paese per affrontare e superare una drammatica situazione di cui noi ci sentiamo responsabili. Siamo i bersagli di una finanza criminale che oggi rischia di far sparire larghe fasce di manifatturiero già da mesi concentrato su un calo di consumi e alla ricerca di sbocchi nei mercati emergenti, soffocati dalla conseguenza negativa di un agire irresponsabile. Questo scrive Paolo Bastianello, che è presidente di Merlis S.P.A. e che in qualche modo denuncia e attacca, critica fortemente le responsabilità della finanza. Il quotidiano L'Unità fa una scelta singolare come copertina, riavvia, ci sono i tre pulsanti del computer, stand by, spegni, riavvia, la scelta difficile del Partito Democratico, oggi la direzione dopo la bufera giudiziaria, Veltroni chiede fiducia per cambiare, ce la farà? E lo stesso Unità pone un punto di domanda, perché Walter beve candeggina ogni mattina e sta benissimo, siamo puliti dentro, questa è la battuta del vignettista Staino, che però insomma diciamo piuttosto amara, anche L'Unità dice il sistema Romeo, adesso l'inchiesta punta su Roma, ma l'imprenditore dopo 5 ore dal jeep, ma che tangenti o gare pilotate, quindi insomma nega assolutamente. Il quotidiano L'Unità, come molti altri giornali in prima pagina, per esempio lo stesso Corriere della Sera, riporta questa notizia incredibile di Emma Marcegaglia, è l'acqua con Varechina. Beh, insomma, ma l'ora del capo di Confindustria ha un convegno, ore di mistero per una brocca sporca, intossicazione Varechina rimasta in una brocca lavata male che ha contaminato l'acqua, e questo è il motivo del malore che ha colpito ieri Emma Marcegaglia alla Farnesina durante la sesta conferenza degli ambasciatori. La leader di Confindustria si è sentita male subito dopo aver bevuto, allarme è rientrato dopo 2 ore e poi è stata dimessa. Insomma, questa è la notizia che è circolata ieri pomeriggio, che è ancora L'Unità, Iervolino sempre più sola, vado avanti, non mi dimetto, ma mentre Rutelli corre dai magistrati per spiegare perché viene citato il suo nome, e poi appunto PD, il giorno più difficile, ma Veltroni vuole la fiducia, e oggi si giocherà la partita politica più importante di Walter Veltroni. E con questa segnalazione dal quotidiano L'Unità io ho finito il mio tempo, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.